C'era in una famiglia una giovane che, come altre sue coetanee, passava le serate filando la lana con il fuso e la conocchia, ma anche chiacchierando e discorrendo. Dai suoi discorsi venne fuori che lei non credeva che i morti bisognasse aiutarle con le preghiere ad arrivare in cielo. Tantomeno credeva che i morti potessero poi, a loro volta, aiutare i viventi. In generale, invece, tutti pensavano che se non si soccorrevano i morti con suffragi, loro potevano venire a tirar le gambe di notte o comunque in vari modi potessero farsi sentire per chiedere aiuto ai vivi. Una sera, durante una discussione, la giovane ribelle e incredula, forse perché troppo redarguita e rimproverata, e forse per far tacere tutti i rimproveri che doveva sorbirsi, venne fuori a dire che credeva talmente poco in quelle stupide paure dei morti che l'avrebbe dimostrato coi fatti. Sarebbe andata in una notte senza luna da sola nel cimitero e se ne sarebbe tornata a casa sana e salva dopo aver lasciato, come prova del suo ardire, il suo fuso conficcato lì per terra. Nessuno a quel tempo avrebbe mai osato una cosa del genere. Una notte senza luna, infatti, la giovane si alzò verso la mezzanotte, uscì dal paese e si diresse verso il cimitero. Aprì il cancello, dritta si diresse verso le tombe. Si inginocchiò a terra presso una tomba e, sempre al buio più completo, ficcò per terra il fuso. Come pattuito. Portava, come tutte le donne dell'epoca, un abito lungo fino alle caviglie. Finita l'operazione, fece per alzarsi, ma si sentì come trattenere, anzi tirare verso terra, verso la tomba. Cercò di divincolarsi, ma non riusciva ad alzarsi e, presa dal panico, si sentì male. Il cuore cedette. La mattina dopo fu ritrovata morta. Il suo grembiule era rimasto fissato per terra, trattenuto dal fuso conficcato vicino ad una torre.